Radio 24 Reportage. Dan Peterson, ritorno a Olimpia, di Carlo Genta. Milano, Pala Lido, siamo venuti qui dove è nata una leggenda dello sport italiano, non solo del basket. Siamo qui alla fonte della leggenda dell'Olimpia Milano per raccontare una leggenda, quella di Dan Peterson, piccolo grande uomo da Evanston, Illinois. Fu l'epicentro di quel terremoto negli anni 80 e adesso ne ha provocato un altro tornando all'Olimpia quasi 24 anni dopo averla lasciata. Ciao coach. Ciao Carlo e amici sportivi di Radio 24, un grande saluto a tutti. Senti coach, io ho il piacere di lavorare con te ormai da 3 anni e mezzo al venerdì per Palla Spicchi. Tu sai che ogni venerdì arrivava la telefonata o il messaggio: ma perché non torna ad allenare? Cosa, lo sai benissimo, no? Yeah. Poi improvvisamente il primo lunedì dell'anno è successo questo terremoto. Ma veramente era cosa, cioè, aspettavo tutto meno questo, cioè ero alle 10:30 proprio la fermata del 27-73 in Piazza Grandi, andando all'Empals, che è la pensione, ok, è uno che ha fatto 20 anni spettacolo, sport, fra l'altro ne ho 19, questo è il 20° anno di Empals con la Olimpia. Voi di Radio 24 non mi date l'Empals, quindi sono in difficoltà. Comunque, ero lì e suono il cellulare, 10:30, e dice: coach, sono Proli, dice lui. Presidente, buongiorno, dice: come sta, coach? E scherzando, che avevo appena perso il Cantù, ho detto: certamente io sto meglio, questa mattina sto meglio di lei, ok? E dice: sì, ieri notte non ho dormito. Ho detto: ma io conosco l'esperienza, perché molte volte non ho dormito io dopo una sconfitta. E lui dice: ma coach, è a Milano questa settimana? Ho detto: sì, tutta la settimana. Perché? Cioè, io vorrei che ci vedessimo. Poi io pensavo: mercoledì, giovedì, venerdì, cioè, ci sono tanti giorni nella settimana, no? Detto: ben volentieri, quando? Oggi. Oggi quando? Subito, a pranzo. Allora, ovviamente mi vuole parlare, io pensavo che magari vuole sfogarsi per la partita. E siamo andati a pranzo, adesso siamo alle ore 13, fai conto. Ero vestito, cioè, proprio da cowboy prima, mi sono tornato a casa, non posso andare a pranzo con il numero uno dell'impero Armani vestito da Timberjack, quindi sono andato nella sua giacca, cravatta, ero non bellissimo come vestito Armani, ma era presentabile. E pensavo che volesse solamente chiacchierare, ok, nient'altro. Più che siamo andati avanti, ha detto 2 o 3 cose che mi ha fatto capire: magari mi vuole chiedere di fare consulente. Avrei dovuto dire di no, perché ero già consulente con la Rayer Venezia e Lega 2. E poi lui dice: io oggi sto cambiando allenatore, cioè Piero Buchi non sarà più allenatore dell'Olimpia Milano. Allora penso maggior ragione di chiedere un consiglio per un nome da raccomandare per un nuovo allenatore. Ha qualcuno in mente, dico io, per prendere il posto. E lui dice: coach, non ho mai pensato a tornare in panchina? Allora dico: allora abbiamo cambiato totalmente il discorso, qui mi sta offrendo la panchina dell'Olimpia Milano. Dice: sì. Allora io accetto, perché non ho paura di fare questo qui, sono ben felice di farlo. Hai accettato subito, non ci hai pensato un istante? Neanche uno. Tu hai allenato comunque una squadra che è diventata una leggenda, no? Una leggenda come i Celtics di Bill Russell, come i Lakers di Magic e Jabbar, come i Chicago Bulls di Jordan. Quella squadra per la pallacanestro italiana è diventata una leggenda, ma l'immagine che dava all'esterno, quella era l'ultima squadra, sì, no, era quella di una squadra comunque che era di amici veri. È possibile? Oh, yeah, è no, così? Guarda, io racconto solamente: io ho allenato a Milano 9 anni, con me tutti 9 anni Mike D'Antoni, 9 anni Gallo, Vittorio Gallinari, 9 anni Franco Boselli, 9 anni General Manager Capellari, 9 anni Vice Allenatore Casalini, 9 anni Preparatore Atletico Tracchelli, ultimi 6 anni medico Franco Carnelli, Dino Meneghin, Roberto Premier, ultimi tre anni Fausto, Renzo Barriera, Fausto Bagni, quindi erano, poi Pitis che è stato lì in squadra l'ultimo anno, è stato sempre qui, anzi ha fatto il terzo, ultimo, penultimo anno, ha fatto una partita, dicono Pitis ha vinto gli scudetti quell'anno lì, e Ricky mi deve due scudetti ancora, ti ha fatto giocare, ok? Grazie a Mike D'Antoni, gli americani si sono inseriti perfettamente ogni volta, McAdoo dal primo istante, non c'è stato neanche un momento perso per, cioè lui era già parte della squadra in un istante, poi la moglie di McAdoo e la moglie di Barlow erano proprio, anche loro amavano questa atmosfera, anzi le moglie, compresa mia moglie, sono, che non era ancora mia moglie, però sono venute sempre un'ora prima della partita, cioè, tutti i tifosi un'ora prima della partita, era al di là della squadra, era anche la tifoseria, c'era grande atmosfera. Quindi per una volta l'impressione dall'esterno era quella corretta. No, non sbagliano. Abbiamo detto di Berlusconi, ma un altro grande personaggio, quello attuale, Giorgio Armani, che conoscenza hai con lui, che rapporto hai con lui? Poco, però la cosa di lui che racconto un episodio per... Allora, Livio Prolli e il general manager Pascucci... non so, due venerdì fa mi hanno preso, sequestro di persone, no? Mi hanno trascinato in via Manzoni 31 per prendere due vestiti a Armani, okay, che sono felice per questo, ovviamente un figurone che faccio io, e vado dentro, tutto c'era loro due, c'erano due assistenti, ragazzi assistenti, la donna che era comandante di tutto il negozio più importante in mano nel mondo, c'era la Sartre, c'era un'armata di persone, cioè, aspettandomi, allora, e prendo le vestite, allora a Cremona, la prima partita che ho vestito di Armani, l'ho visto lui, l'ho conosciuto, ho detto come va questo vestito, e lui prende, giuro, l'orlo della giacca e dice a Prolli e gli altri che erano lì, forse deve essere mezzo centimetro più corto perché non si vede la camicia, boom, questo ti indica e poi ieri eravamo lì alla ma con piacere, okay? Sei proprio allucinato io. E ieri la squadra, ci eravamo lì alla sfilata, no? Degli uomini, velocissimo fra l'altro, 8 solo sì, minuti, sì, sì. Solo 42 capi hanno fatto vedere. E alla fine siamo andati dietro a salutare lui, per anche una foto di squadra, no? E lui ha preso una sedia lì, messa qui. E dice, coach, prendi un'altra sedia, ci siamo seduti, mettetevi qua, poi... E messo in semicerchio, ho detto forse non riescono, foto venuta perfetta, l'hai visto tu oggi sul giornale, organizzato lui, ma dico pum, pum, pum, pum. Lui è uno di questi, in questo senso è come Berlusconi, sono uomini che non perdono tempo, se mi spiego, cioè vanno subito al cuore del discorso, subito, anche mi ha chiesto ieri come va la squadra, cioè, ma senza attaccare pressione. E fra l'altro c'era lì la sua sorella, ex giocatrice di basket, sì. Fra l'altro, anche lei molto, molto coinvolta in tutto. Quindi è stata un'esperienza. In questo tuo ritorno la differenza è che prima, insomma, nella pallacanestro italiana c'era chi ti amava e chi ti odiava, no? Tifosi avversari, Pesaro, insomma, piazze storiche a Roma, eccetera. Adesso i tifosi sono tutti dalla tua parte. Avresti bisogno di un Valerio Bianchini. Bianchini è sempre coinvolto nel basket, ha scafati, tanto per dire, quindi mi fa piacere perché lui è un grande personaggio, gente come lui serve al basket. Ci sono sempre nemici, ok? Loro non spariscono mai, però anche lì a Cremona, applausi, eccetera. Vediamo quando vanno in trasferto, penso di sì, perché chi vuole fischiare uno di 75 anni? Questa è la mia domanda, okay? Vorrei tanto vedere. Okay? Io ho ancora una cosa da chiederti, coach. Cosa c'è nel futuro? Come va avanti questa leggenda? La tua? Adesso non lo so, dipende anche molto dai risultati. Io, la mia forza è che veramente penso a passi piccoli, ok? Non guarda avanti, i traguardi sono lì sempre, se alzo gli occhi li vedo, però se alzo gli occhi e guardo avanti ti inciampi sul primo buco che trovi per la strada. E il primo buco è sempre la partita successiva. Anni fa hanno chiesto al più grande giocatore di pallavolo nella storia dello sport, di quello sport, Kirai, l'americano, Kirk Kirai. Una giornalista ha chiesto a lui come lui si preparava per vincere le medaglie d'oro alle Olimpiadi. E lui dice, non mi preparavo per quello, mi preparavo sempre per il prossimo punto. Vuol dire compartimentalizzazione, un piccolo compartimento, un punto in una partita. Sì. Pensavo solo a questo. Grazie Cosimo, okay. Bocca al lupo. Ciao, grazie. Una situazione che può diventare drammatica, 4, 2 secondi. Prende la palla, la prende, ha vinto la Coppa dei Campioni, 101 anni dopo il suo primo successo, e qui il pensiero deve andare anche ai grandi del passato. Mentre porta la Coppa in alto, ecco la mostra, la riempie di fumante in questo segno di vittoria, anche Dan Peterson è il secondo americano a vincere la Coppa dei Campioni. E per fortuna del basket italiano abbiamo tutti avuto la possibilità di vivere e di farvi vivere una serata che ritengo indimenticabile.